Rosamund, Rosamund, che magnifica serata, sembra quasi preparata da una fata delicata. Mille luci, mille voci, mille cuori strafelici, sono tutti in allegria, oh che felicità. Rosamunda, se mi guardi tu, Rosamunda, non resisto più. Tutte le coppie poi inciampar, più non mi trovo a saltellar. Rosamunda, tu mi fai gioire, Rosamunda, tu mi fai stordire. Rosamunda, tu mi fai stordire.